Se fino a circa un anno fa c'era una netta prevalenza soprattutto degli uomini nelle procedure di accesso, invece quello che stiamo notando è ormai un equilibrio di genere, quindi uomini e donne rispetto all'accesso, e un progressivo ringiovanimento dei sovraindebitati, e questo per noi è un punto particolarmente drammatico, perché soprattutto le cause del sovraindebitamento non sono legate ad attività lavorative, diciamo, andate a male, ma sono legate purtroppo a problemi di dipendenze o di ludopatia, e quindi questo è particolarmente preoccupante. Quindi la necessità, come dicevamo prima, di svolgere una funzione di educazione finanziaria fin dalla più tenera età è essenziale, ma non è molto condivisa.